Il punto di Stefano Folli. Al di là del malinconico epilogo della parabola politica di Mario Monti, è vero che della maggioranza di governo c'è qualcosa da chiarire. Non si tratta di temere la crisi sulla legge di stabilità, perché si è capito che nemmeno Berlusconi e i suoi la vogliono, come logico. E del resto Letta torna più forte dall'America dopo il sostegno esplicito ricevuto da Obama. Ma i problemi dentro la coalizione ci sono, vedi anche il caso di Fassina, e sono più politici che di merito, riguardano la gestione di una base parlamentare tanto vasta quanto poco omogenea. Qualcuno pone il problema della collegialità, cioè del decidere insieme, che spesso è solo una finzione retorica, e tuttavia la questione non può essere trascurata pena lo stillicidio delle polemiche quotidiane. Il passaggio alle Camere della legge di stabilità è inevitabile, ma il modo in cui avverrà dipende dal Presidente del Consiglio, dalla sua capacità di ascolto e di mediazione permanente. Come si dice, ogni giorno ha la sua pena.